come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui alle 18.36, numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, i titoli del TG2. Fermato il killer del bar al quartiere Sanità di Napoli, il video del delitto aveva fatto il giro del mondo, è un camorrista di 27 anni. A 26 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la superteste compagna di uno dei boss della Magliana dice che Emanuela è morta e svela chi per primo telefonò alla famiglia. Per combattere le occupazioni scolastiche è proposto il 5 in condotta in un manifesto firmato da presidi romani. Prime sanzioni in alcuni licei. Il dramma degli stambecchi delle nostre Alpi, per una malattia agli occhi rischiano di precipitare nei crepacci, per salvarli vengono narcotizzati, catturati e curati con antibiotici. Studio aperto. Napoli, preso il killer del video shock, è un 26enne pregiudicato, l'hanno arrestato proprio grazie a queste immagini che hanno fatto il giro del mondo. La moglie della vittima si sfoga, studio aperto. Si riapre il caso Orlandi 26 anni dopo la scomparsa di Emanuela. Individuato e indagato il telefonista che contattò la famiglia. Parla la super testimone, la ragazza è seppellita a Torvaianica. Daniela, 15 mesi, arriva in ospedale col mal di pancia e muore. La rabbia dei genitori, diteci che cosa ha ucciso nostra figlia. Aperta un'inchiesta, ma è solo l'ultimo caso sospetto in Calabria. Anche in tempi di crisi abbiamo continuato a investire. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente. Piccola notizia, avviso ai naviganti. Leggo da Repubblica di oggi, tutto il mondo e il paese, anche i partiti che si fanno paladini del rigore, i partiti che si presentano come l'anticasta, in realtà poi qualche strapuntino lo vogliono. Aggiungi due posti a tavola con voto bipartisan, 239 sì, 12 no e 15 astenuti, il Senato approva una modifica del regolamento che gonfia il suo consiglio di presidenza con nuovi benefit e nuovi costi. I segretari d'aula da 10 diventano 12 per rispondere a una vecchia protesta dell'Italia dei Valori. Infatti il partito di Di Pietro era stato escluso dalla spartizione dei posti di segretario all'inizio della legislatura, un anno e mezzo fa. Naturalmente queste poltrone danno auto, personale di segreteria e altri benefit. Signor Nino, un chiosco! E sarà un miraggio! No, è un chiosco vero! Acqua, è proprio un bibitaro! Acqua! Non è un miraggio, è proprio acqua! Bolle, mille bolle, blu, blu, mi sento dondolare. L'acqua, ancora sull'acqua, il terrorismo che si fa su questa legge che molti presentano come la privatizzazione dell'acqua e invece non è vero, l'acqua rimane un bene pubblico, il modo di gestirla è un'altra cosa, c'è gente che si incatena davanti al Parlamento. 320 deputati ieri hanno rubato l'acqua a tutti gli italiani e l'hanno regalata alle multinazionali. La Camera non ascolta e loro noi oggi ci siamo incatenati qui per dire che questo furto non passerà. Diciamo molto chiaro che chi pensa di rappresentare il Paese ha deciso di chiudere le finestre del palazzo. Il terrorismo, anche dell'informazione, in parte naturalmente, continua e sentite il nostro Tonino, il nostro amato Tonino Di Pietro che dice sete, diventeremo tutti assetati, non si può pagare per l'acqua. Ma l'acqua non è un servizio, è un diritto di per sé che spetta a tutti per il solo fatto di esistere. Non è che uno può bere se ha i soldi e muore di sete se non ha una lira. Otto zero zero ventiquattro, altro argomento, non so a chi è venuto in mente, perché l'invenzione di questo nome rende il tutto ridicolo, pessimo, non so usare un altro aggettivo, White Christmas, Natale bianco. E naturalmente oggi abbiamo visto rievocare il Ku Klux Klan, il razzismo dell'Alabama, eccetera eccetera. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Quelli che sono in ordine stiano qui, quelli che non hanno il permesso, purtroppo mi dispiace. Credo che questa iniziativa qua faccia un po' ridere, sinceramente. Come era prevedibile, in paese non tutti la pensano allo stesso modo. Fatto sta che l'operazione White Christmas, Bianco Natale, a Coccaglio, Brescia, è già partita. Entro il 25 dicembre, via tutti i clandestini dal comune. Una scelta, quella del sindaco leghista Franco Claretti, che fa discutere. Se non hanno residenza a Coccaglio, che non hanno il permesso, possono mandarli via. Benissimo. Un impegno un po' particolare, un po' grande. Dal 25 ottobre i vigili di questo paesino di 7.000 abitanti e 1.500 stranieri stanno bussando alle abitazioni di circa 400 extracomunitari per verificare chi non è in regola con il permesso di soggiorno. Tra gli extracomunitari scatta l'allarme. No, oh, non è giusto. Perché non è giusto? Perché anche loro sono ragioni di vivere in un paese. È solo propaganda, fa sapere l'opposizione. Forse, ammettono in comune, la scelta della data non è delle più felici. Probabilmente posso anche ritenere che sia stato così, è stato perché è un'operazione che è partita il 25 di ottobre e termina il 25 di dicembre, nel senso che la durata è di 60 giorni. Certo è però che finora su 150 ispezioni dei vigili è risultato irregolare circa il 50% degli stranieri controllati, uno su due. The White Christmas. Ma a chi è venuto in mente di chiamare un'operazione di controllo, poi si può discutere, giusta, sbagliata, eccetera, eccetera, e tutte le discussioni che ci sono quando un comune è retto da un leghista, a chi è venuto in mente di chiamarla White Christmas? Che naturalmente fa venire strani pensieri che non sono quelli di Natale, non sono quelli delle canzoni di Natale. Allora, a proposito della vicenda Battisti, potrebbe essere una tattica quella di forzare la mano, di drammatizzare la situazione, cioè arrivare magari con uno sciopero della fame o minacciando la morte a convincere il presidente Lula, non lo so, potrebbe accadere, la situazione è ancora molto complessa, potrebbe succedere che Lula, di fronte ad una questione di tipo umanitario, dica non lo possiamo dare all'Italia. Il fratello di Battisti, si chiama Domenico, abita in Toscana, dice che lui tornerà morto in Italia, che non vuole tornare vivo. Sentite. Quando uno è innocente deve stare fuori, non in galera. E suo fratello è innocente, secondo lei? Sì, da una famiglia come la nostra non poteva uscire assassino. Come sta? Ma come sta? Sta bene, adesso no. Questo sciopero. Questo sciopero logico, ha calato 5-6 kg, però comunque lui vivo in Italia, non c'è niente, mi ha detto questo. Quando l'ha sentito l'ultima volta? Sì, un mese fa. Era determinata ad andare avanti? Sì, ha detto vivo, no, le polvere ritorneranno perché si fa crepare. E questo era il fratello di Battisti. Più tardi avremo ospiti, perché c'è chi non si arrende in Italia all'evidenza e è contro l'estradizione. Una frase che mi ha colpito oggi a Sky TG24 pomeriggio, il programma condotto da Paolo Saluzzi, del ministro della difesa La Russa. E si parlava delle carceri, se non sbaglio, anche di altri argomenti, tra cui quello di Battisti. Ha detto, a proposito dei suicidi in carcere, La Russa, che anche se ci fossero alberghi a 5 stelle, questo mi ha colpito, anche se ci fossero alberghi a 5 stelle, il numero dei suicidi sarebbe lo stesso, sentite. Anche se fossero in hotel a 5 stelle, i detenuti potrebbero benissimo e danno sicuramente vita, per la condizione particolare, a un numero di suicidi che rispetto alla media nazionale ovviamente è un po' più alto. Cioè il fare l'equazione, condizioni di vita non buone e omicidi, una volta che chiunque lo sa, la condizione di detenuto, ahimè, può portare alla patologia che portano anche al suicidio. Quindi non è che 61 vuol dire che se gli mettiamo il frigo bar, 8 ore di aria e la musica soffusa non ci sarà neanche un suicidio. Beh, è stupenda questa cosa della musica soffusa nelle carceri, del frigo bar. e degli alberghi a 5 stelle, no, naturalmente non ci vogliono queste cose, però forse condizioni leggermente più umane in alcuni casi sarebbe meglio. Mentre sembra tramontare, per chi è interessato a questo argomento, credo molto pochi, la candidatura di Massimo D'Alema come ministro degli esteri dell'Europa, ministro degli esteri dell'Europa, dunque in qualche modo Brunetta, sempre Brunetta, ci aveva azzeccato su questa vicenda di D'Alema. Era stato tra quelli della maggioranza che avevano detto: ma insomma, non mi sembra una grande idea. C'è un inglese, una tale Ashton, che potrebbe diventare il candidato del Partito Socialista Europeo. Brunetta su D'Alema. Il ministro Brunetta tifa per D'Alema ministro degli esteri dell'Unione Europea, sì o no? No, lo dico con molta sincerità, non per ragioni personali, ma penso che un ministro degli esteri europeo deve avere altre caratteristiche che non sono quelle che il pur competente D'Alema ha. Però ovviamente l'Italia ha tutto l'interesse ad avere un italiano in una posizione preeminente a livello europeo, però devo dire, mi faccia dire tutto. I comunisti e i postcomunisti non hanno ancora fatto la loro Bad Godesberg, non sono ancora diventati socialdemocratici. Finché non diventano socialdemocratici non possono rappresentare il futuro dell'Europa. Stilettata a D'Alema, non credo che abbia influito, però oggi è arrivata questa notizia e dunque le chance di D'Alema sono molto ridotte. Antonio da Pavia, buonasera Antonio. Salve, mi sente? La sento Antonio, dica. Salve, senta, cioè, la chiamavo a proposito del No B-Day. Sì, No B-Day, o No sì. Cab Day, o No... Insomma, lo vogliamo chiamare. Un paio di sere fa lei ha iniziato il programma dicendo che, parlando di Bersani, che non avrebbe dovuto pensare più di tanto al fatto se aderire o meno alla manifestazione, in quanto i motivi, diciamo, le parole d'ordine, come lei le chiamava, se fossero state quelle di Tony Troia, giustificavano il... Sì, ma non ci sono solo quelle, è uno dei tanti esempi che posso fare. Sì, d'accordo, però lei è stato categorico quando ha detto che... No, secondo me il Partito Democratico, un partito serio, di fronte al modo in cui è stata organizzata questa manifestazione, alle parole d'ordine, per intenderci, alle parole che ispirano gli organizzatori della manifestazione, non dovrebbe pensarci nemmeno un secondo, dovrebbe dire: noi non c'entriamo niente con questa cosa. E invece molti dirigenti vanno, almeno poi di giorno in giorno ci sono nuove adesioni e il segretario non si capisce quale posizione voglia prendere. Questo è quello che vedo io in questo momento. Sì, mi perdoni, quello che io volevo farle rilevare era che... Sì, prego, dica. Egli era stato categorico quando ha detto che un partito serio non può prendere in considerazione l'ipotesi di partecipare a questa manifestazione. Io non sono perfettamente, completamente d'accordo. Giustamente, perché non è d'accordo? Lo dica. Perché se una manifestazione, appunto lo dice il termine stesso, manifestare, è manifestare in quel momento, in quel giorno, io non ci andrò, premetto, sì. Però capisco che chi voglia in qualche modo esprimere la propria voce dicendo che è stanco del nostro Presidente del Consiglio, che magari chiedere anche ad alta voce che il Presidente del Consiglio affronti i suoi processi, che venga giudicato e che poi magari vada a finire anche in galera, io credo che non sia da definire poco serio, ecco. Antonio, è un punto di vista. Io penso al contrario, che di fronte alla impostazione della manifestazione il Partito Democratico dovrebbe tenersi alla larga, questo penso io. La ringrazio. Fabio da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani. Dunque, io volevo semplicemente chiederle un'opinione. A me sembra che ultimamente parlo di Silvio Berlusconi, penso che lui, visto che il popolo l'ha votato, gran parte del popolo, io no, ma è una cosa mia, l'ha votato, lui si è identificato, ha avuto un processo di identificazione con il popolo, per cui se un problema è suo, diventa un problema degli italiani, mi spiego meglio, lui ha un problema ad esempio con la giustizia, l'indomani si fa subito, si parla e si cerca di fare una legge sulla giustizia. Lui ha un problema con, non so, una camicia lavata in lavanderia, l'indomani in Parlamento si tenta di fare una legge sulla sicurezza dei capi lavati in lavanderia, non lo so. Mi sembra che in Italia si stia un pochino troppo troppo correndo dietro ai problemi di Silvio Berlusconi. Con questo io non voglio dire che le leggi che vengano fatte, perché tipo leggi sulla giustizia, quando si parla di ridurre i tempi processuali, è ovvio che tutti vorrebbero ridurre i tempi processuali, però il concetto è: ma perché adesso, con tutti i problemi che abbiamo in Italia, bisogna affrontare questa come priorità massima? Ci sono problemi, secondo me, come il lavoro, le persone che non hanno appunto il lavoro, ci sono problemi. Ho capito. Un suo parere su questo. Guardi Fabio, ne abbiamo già parlato a lungo nei giorni scorsi, molto semplice, secondo me è del tutto evidente che questa legge non è una riforma della giustizia e che viene presentata al solo scopo di bloccare i processi di Berlusconi. Poi insomma, faccia lei. Giuseppe da Caserta, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Dica. Io volevo solo confrontarmi con lei su una mia idea che mi è venuta oggi. Ma sentendo la proposta dell'onorevole Fini riguardo a dare il voto agli immigrati che sono in Italia da più di 5 anni, sì. Tra l'altro una proposta non certo nuova, io la vedo così, io penso che, dato che tra l'altro sono 30 anni che voto, 28 ho votato per Fini o per il suo partito prima, sì. E gli ultimi due anni per Forza Italia e poi quest'anno per la lista pazza di Ferrara, quindi immagino un po' come la vedo. Ma io vedo che suo signore, più che interessarsi agli immigrati, di cui probabilmente non gliene può fregare di meno, gli interessano i loro voti, ma neanche, perché chiaramente non voterebbero per lui, in funzione anti-Lega. E da questo punto di vista ovviamente avrà la sinistra dalla sua parte. Cioè credo che al momento la Lega sia al nord, perché ovviamente questi immigrati di oltre 5 anni stanno tutti quanti al nord, io sono del sud. Ce ne sono ben pochi, certo, gli immigrati, certo. Lei dice Fini presenta questo disegno di legge, lo fa presentare con una furbissima tattica di tipo elettorale. No, però, ma guardi Giuseppe, questo per però poi mi sbaglierò. Ho capito, questo mi sembra però un processo alle intenzioni. Da questo punto di vista la genuinità, la spontaneità dell'iniziativa politica di Fini non si può negare, altrimenti qualsiasi cosa la possiamo interpretare in un modo diverso. Io personalmente credo che i criteri per dare il diritto di voto agli immigrati debbano essere leggermente più ferrei di quelli presenti all'interno del disegno di legge, ma in generale credo che non sia sbagliato che se uno paga le tasse in un posto debba contribuire, naturalmente secondo certi tempi e certi criteri, alla scelta della classe politica. La ringrazio, abbiamo il giornale radio delle 19.800 24.00.24, a dopo. Titoli del TG3. Emanuela Orlandi, dopo 26 anni c'è un indagato, è l'uomo che telefonò ai familiari, la ragazza sarebbe morta subito dopo il sequestro. Spacciatore arrestato a Castelvolturno, per gli investigatori è il killer ripreso dalle telecamere in un bar a Napoli mentre uccideva. Stop a Massimo D'Alema per la candidatura a ministro degli esteri dell'Unione Europea, il PSE sceglie la britannica Catherine Ashton. Napolitano, vedo grosse difficoltà in Parlamento, vanno tutelati i diritti della minoranza, mi riservo di intervenire sulla qualità delle leggi. Montezemolo, no a riforme ad persona, Malfano scarso l'impatto del processo breve, Bersani sì al confronto ma quella legge va ritirata. Bagarre in aula per il via libera alla privatizzazione dell'acqua, continua l'inchiesta al TG3 nei paesi dove il servizio è già in mano ai privati. I presidi di Roma si mobilitano contro le scuole occupate, gli studenti rischiano il 5 in condotta, polemiche e proteste. Annuncio shock sul giornale di un uomo schiacciato dai debiti e perseguitato dagli usurai, non ce la faccio più, vendo i miei organi. Era il TG3, sentiamo anche Sky TG24. Delusione europea, Berlusconi è al vertice, ma per D'Alema ci sono poche speranze. Il Parlamento grosse difficoltà, dice Napolitano e aggiunge, forse vedrò Schifani. Il decreto Ronchi è legge, nel testo è anche la liberalizzazione dell'acqua. Per Alfano il processo breve non avrà un impatto traumatico, l'ANM non ci crede. Incastrato dal video shock, a 27 anni l'uomo arrestato per l'omicidio di Napoli. Svolta nelle indagini sulla Orlandi, c'è un indagato, Emanuela sarebbe morta. Appello di Montezemolo, servono riforme condivise, non leggi solo per qualcuno. Karzai si insedia in Afghanistan per Frattini, non è ora di inviare altre truppe. Irlanda beffata, protesta anche il Premier, Domenech assicura, non ho visto il replay. Torna l'ero spatinato del calendario Pirelli, 11 modelle atmosfere da pop art. Siamo qui alle 19.20, le notizie più assurde della giornata. Ne ho pescata una che in realtà non è di oggi, di qualche giorno fa. È stato ritirato da tutte le reti televisive nazionali lo spot della Calzedonia prodotto sulle note col testo dell'inno di Mameli, ricordate? Sorelle d'Italia, l'Italia si desta dell'elmo di Scipio, si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma. Beh, insomma, uno spot secondo me straordinario. Ebbene, chi ha deciso il ritiro di questo spot? L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Cos'è l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria? Che ha accolto la denuncia presentata dall'Associazione Difesa Consumatori Sportivi. Qui, insomma, è complicato, Associazione Difesa Consumatori Sportivi. In Italia c'è un proliferare di queste sigle incredibile. Insomma, alla fine, sul ricorso di questa associazione, l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria ha deciso la sospensione. Evidentemente poi Calzedonia si è arresa. Non si capiscono ancora i motivi, evidentemente per offesa all'inno nazionale o giù di lì. Intanto aumentano, per passare a cose della politica, aumentano le adesioni alla manifestazione del 5 di dicembre, naturalmente sempre sulle note del solito, sulle note del solito Tony Troia. Ambocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato nel vedere Berlusconi con la faccia da smerdato. E dunque probabilmente vedremo sfilare uno accanto all'altro Tony Troia, che giustamente è uno degli organizzatori, è uno di quelli che ha sovillato, lo dico con cortesia, diciamo, le persone su internet, e per esempio Don Giorgio De Capitani, il solito prete anti-berlusconiano, sentitelo. Io da tempo sostengo che non è degno di rappresentarci, non è degno, ecco, di essere il Presidente del Consiglio, per cui veramente bisogna dire basta. Bisogna avere il coraggio di manifestare, bisogna avere il coraggio di scendere in piazza, bisogna avere il coraggio di urlare, bisogna avere il coraggio di veramente smuovere le coscienze della gente, anche se sono convinto che magari la gente capirà, ma poco a poco. Però bisogna avere veramente questo coraggio di uscire, ecco, alla scoperta, e di urlare che vogliamo essere rappresentati da una persona più degna. Ambocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato. E poi accanto a Don Giorgio De Capitani, a Tony Troia, ci sarà anche Miriam Mafai, che però dice basta che poi non ci siano là Di Pietro e non so chi altro a organizzare. Cara Mafai, purtroppo per lei sarà così. Aderisco alla manifestazione del 5 dicembre e non vedo perché non ci dovrei andare. Darà voce, penso, al disagio crescente di cittadini per bene, stanchi di vivere in un paese nel quale tutto è subordinato alla soluzione delle vicende giudiziarie di Berlusconi. Ambocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato nel vedere Berlusconi con la faccia da smerdato. Sì. Il clima alla manifestazione sarà questo, inutile girarci intorno. E dopo Don Giorgio De Capitani, la Mafai, c'è anche Odi Freddi, il matematico Odi Freddi. Aderisco alla manifestazione del 5 dicembre contro Berlusconi e il suo governo, perché credo che si sia veramente passato ormai un limite della decenza. La 19ª legge ad personam che il Presidente del Consiglio fa semplicemente per evitare di affrontare i processi che lo vedono imputato. Ambocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato. Bene, bene, bene, 19.25, 800 24 00 24, la gente che muore di sete, il terrorismo nella vicenda dell'acqua. Vi ripropongo ancora questo audio strepitoso di Antonio Di Pietro dalla Camera di oggi, dopo aver dato del mafioso a Berlusconi, ma questo ormai è la normalità. Ha detto, insomma, non si può lasciare la gente morire di sete, ogni cosa per carità, si può discutere tutto, naturalmente non è detto che bisogna essere a favore di questo disegno di legge sulla privatizzazione della gestione dell'acqua, si può avere anche un'idea contraria, come è normale che sia, però è il caso di impostarla in questo modo, sulla morte da sete? Ma l'acqua non è un servizio, è un diritto di per sé che spetta a tutti per il solo fatto di esistere. Non è che uno può bere se ha i soldi e muore di sete se non ha una lira. La Russa, i detenuti a 5 Stelle, altro audio secondo me significativo, perché i problemi del carcere ci sono e sono tanti. Non basta dire i suicidi, certamente i suicidi sono maggiori in carcere, su questo non c'è dubbio, l'ho detto anche nelle settimane scorse, sono sicuramente più alti rispetto ad altri organismi sociali, diciamo, rispetto ad altri luoghi, non c'è dubbio, però un ministro non può dire i suicidi sarebbero probabilmente gli stessi se ci fossero alberghi a 5 stelle o altre cose. Anche se fossero in hotel a 5 stelle, i detenuti potrebbero benissimo e danno sicuramente vita per la condizione particolare a un numero di suicidi che rispetto alla media nazionale ovviamente è un po' più alto. Cioè il fare l'equazione, condizioni di vita non buone e omicidi, una volta che chiunque lo sa, la condizione di detenuto ahimè può portare alla patologia che portano anche al suicidio, quindi non è che 61 vuol dire che se gli mettiamo il frigo bar, 8 ore di aria e la musica soffusa non ci sarà neanche un suicidio. Ci sarebbe da discutere anche sugli studenti che diventano star, escono dopo la liberazione, dopo gli scontri di Milano e vengono accolti da cori, da stadio, da fumogeni, dopo avere probabilmente sfasciato vetrine, macchine, motorini durante le manifestazioni. C'era un signore, un ragazzo che aveva una grande felpa con scritto antifascist in rosso, una felpa nera e cartelli con su scritto adesso manganellateci tutti e frasi ridicole dette all'uscita di questi ragazzi. Ma lasciamo perdere e andiamo a sentire un ascoltatore, Riccardo da Roma, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Io volevo dire semplicemente due cose. Uno, sulla manifestazione che ci sarà, penso che nonostante le sue critiche a Di Pietro non sia una persona di destra, è una persona di sinistra ma una persona di destra, e questa manifestazione non è una manifestazione di sinistra ma una manifestazione contro Berlusconi, e contro Berlusconi si può essere tipo come me anche di destra ma non essere sicuri al 100% che il nostro Presidente del Consiglio sia una persona onesta. Allora? In questo caso, se c'è questo dubbio, è legittimissimo manifestare e anzi sarebbe ancora più legittimo fare come ha fatto per esempio il capo del RIS, appena una persona è indagata, dimettersi e accettare un processo, che poi questo processo mette una pietra tombale su tutte le accuse a Berlusconi, però accettare il fatto che qualcuno si faccia processare come qualsiasi cittadino secondo me è normale e non è di sinistra, è una cosa di morale. L'ultima osservazione banale su Calcedonia, penso che invece che quella canzone sia una canzone bellissima, l'ho anche cercata su internet e non sono riuscito a scaricarla, secondo me l'inno nazionale ci guadagnerebbe molto ad avere una inno così. I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. White Christmas a Coccaglio, stiamo chiamando il sindaco di Coccaglio per farci spiegare. To hear sleigh bells in the snow. È tutto il giorno che non risponde. Franco Claretti, sindaco di Coccaglio, Brescia, non parla con nessuno. Qualcuno, non so se i vigili urbani, la giunta di Coccaglio, provincia di Brescia, ripeto, ha deciso di chiamare un'operazione di controllo sugli immigrati per capire se hanno il permesso di soggiorno o no, White Christmas, e naturalmente oggi si sono scatenati i giornali di sinistra, come è normale che sia. Pronto? Cercavo il sindaco. Chi è che parla? Giuseppe Cruciani, Radio 24. Non c'è. Non c'è il sindaco? No. Lei la moglie? No, sono la mamma. La mamma, mi scusi, signora. E siccome è tutto il giorno che lo cerchiamo, per cercare di farci dare una spiegazione su questa vicenda del White Christmas, no? Sì, ma anche avete che hanno ingrandito tutti per il niente. Lo so, però cerchiamo una spiegazione dal sindaco, sarà stata pure ingrandita, probabilmente è così, stiamo cercando di capire soprattutto chi ha dato il nome a questa operazione. Ah, non lo so. Deve telefonare in comune domani in giornata. Ma noi stiamo cercando, questo è il telefonino personale, lo so che è accanto a lei. No, non è accanto a me, perché non abita, non è qua. Dunque, le ha lasciato il cellulare? Il cellulare io non posso darglielo perché è privato di mio figlio. E ieri me l'avete già chiamato, io l'ho riferito a mio figlio, io non so chi ha chiamato ieri, anche Radio 24, una ragazza, sì. E ha parlato con quella ragazza, mio figlio. Vabbè, noi abbiamo chiamato al telefonino del sindaco, Il telefonino del sindaco? Prima, poi a casa naturalmente, ma adesso a casa. Ma come fa a avere il telefonino del sindaco che io non gliel'ho dato? No, ma ce l'hanno dato altre persone. Ah, altre persone? È pur sempre il sindaco di un paesino, insomma, si può contattare tranquillamente. Tranquillamente, sì, però io se avete già il telefonino basta. Sì, no, ho capito. A casa non c'è. A casa non c'è. Non c'è. Non c'è. Va bene. Grazie. Prego, salve. E stiamo cercando disperatamente Franco Claretti, che è il sindaco di Coccaglio in provincia di Brescia, per capire chi ha inventato questo White Christmas, il Natale bianco. Forse pensavano di fare un Natale senza immigrati irregolari, non so. Roberto da Verona, buonasera. Cruciani, buonasera. Buonasera Roberto. Io vorrei fare una proposta. Mi dica. Sostituire l'inno ufficiale con l'inno di Calzedonia. Addirittura? Che dice lei? No, mi sembra esagerato questo. Francamente io mi sembra esagerato. Lo sostituirei per creatività, per freschezza. Quello sì. Per arrangiamento. Novaro è stato meno bravo di quello dell'arrangiamento di Calzedonia. Novaro mi pare che era quello l'arrangiatore e Maneli i testi, no? Non lo so. Ecco, io questa è la mia proposta. Roberto, magari ogni tanto l'inno italiano è stato l'inno. Una forzatura, però. No, lo so, ogni tanto l'inno italiano è stato. Ogni tanto l'inno italiano è stato cantato in alcune occasioni. Sarebbe bello sentirlo ogni tanto cantato da qualcuno. Io ricordo. No, bisogna secondo me premiare veramente la grande creatività di quello spot, perché la pubblicità può essere anche stupida. Ma tra l'altro io non capisco perché è stato ritirato. Come funzionano queste cose? Un istituto decide che una pubblicità va ritirata, per quale motivo? Vedremo più avanti. Più avanti avremo varie voci, varie persone che se ci rispondono, forse ci daranno una spiegazione. Quello spot, Luciani, scusa se sì. Posso. Sì, alla grande creatività di quello spot si contrappone, scusate la parola, ma la metto tra virgolette, la grande stupidità del sindaco, eccetera, eccetera. Quale sindaco? Di Coccaglio, che è una cosa vergognosa. Non sappiamo però se sia stato lui a inventarsi questo vabbè, White Christmas. Qui sono troppe le cose che non si sanno, come quello che leva la targa di impastato, insomma, so genduccola che veramente dovrebbe essere messa un po', come si dice, da parte. Da parte, grazie Roberto. Andiamo a Rimini. Ciao Cruciani. Luca, buonasera Luca. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Io la chiamo perché volevo chiedere anche a lei un po' un'opinione sulla candidatura di D'Alema. Ho sentito prima su Radio 24 sul fatto che non sia più in pole position D'Alema, con due motivazioni. La prima è che non è un uomo di governo, per cui appunto può esserci una decisione politica. Ma adesso la seconda sul fatto che appunto dando la candidatura a una donna farebbero un po' felici il fatto di mettere una quota rosa nel ministero appunto degli esteri europeo, e secondo me è un non senso. Chiedo un po' a lei la sua opinione, cioè sul fatto che lei è una donna, questo allora deve, voglio dire, preclude in qualche modo il fatto che altre persone, altre competenze non vanno in quel posto. Cioè è folle secondo me il fatto che addurre e portare le considerazioni, cioè mettere una donna e dire perché in questo modo mettiamo una quota rosa e facciamo contenti un po' il popolo, e l'ipocrisia il fatto di avere anche una quota rosa dentro. Cosa ne pensi di questa cosa? Cioè, guardi Luca, io penso che sia talmente inesistente come carica, priva di qualsiasi potere reale, che potrebbero metterci chiunque, un semplice parlamentare europeo, il gioco credo che sia un gioco di di interesse nazionale, cioè quel posto evidentemente per un motivo o per l'altro spettava alla Gran Bretagna. Adesso c'è questo ticket con il Belgio, si tratta di due personaggi magari sconosciuti a noi, forse conosciuti nell'establishment europeo, non lo so. Dunque evidentemente D'Alema è stato fregato da questo, dal fatto che comunque la Gran Bretagna voleva una delle due cariche, non è cresciuta la candidatura di Blair e a questo punto si è data precedenza a un commissario come la Ashton e in più donna, lo ha detto esplicitamente il premier britannico Blair, Brown. Luca, cosa vuole che le dica? Sì, no, però non credo appunto che tutti questi giochi politici, che è una posizione donna, che poi non vanno un po' anche a togliere un po' all'Europa il ruolo che ha, cioè alla fine le persone sentono, no, che lì si mette una donna perché è collegata a quello, lì si mette quello, però alla fine cos'è? È tutta una spartizione di posti un po' è così, perché essendo l'Europa formata da un tot di paesi, anche lì c'è una spartizione di poltrone. La ringrazio, Alessandro da Pescara, buonasera. Buonasera. Mi dica. Pronto? La sento Alessandro. Ecco, niente, io volevo intervenire tanto per cambiare sul tema giustizia. In questo senso, con una brevissima osservazione, se non ricordo male, dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale del Lodo Alfano, il nostro bene amato Premier si espresse a mo' di Brancaleone da Norcia, dicendo: bene, hanno deciso che debba essere giudicato, benissimo, lo farò e stroncherò quei giudici che mi vogliono condannare. Perché non lo fa? Alessandro, secondo me dovrebbe farlo, perché la prima reazione è distinta dopo la bocciatura della Alfano. Il gioco delle parti. Sì. Diventa il gioco delle parti, ossia prima esprime un giudizio che probabilmente poteva anche, come dire, rinverdire la sua aureola in quel momento un po' appannata, perché parliamoci chiaro, vabbè, il popolo bue fino a un certo punto. Insomma, non ho capito, secondo lei Berlusconi cosa dovrebbe fare adesso, tanto per capirci, Alessandro? Niente, dovrebbe chiudere il discorso assolutamente. Cioè basta leggi, basta leggi. E fare quello che ha detto che l'avrebbe fatto. Andare in tribunale, secondo lui, a sbugiardare i giudici. Io ero un dirigente di una grossa banca italiana. Sì. Per un motivo che adesso qui è troppo lungo discutere, fui chiamato a rispondere di atti ovviamente non erano a mio carico. Sì. Io l'ho cercato io il giudice per farmi giudicare immediatamente dopo il rinvio e l'ho ottenuto immediatamente, sono stato prosciolto con tante scuse, tutto e basta. Va bene, questo Alessandro. Fa una persona, secondo me, se è sicura di sé. Ma ripeto, al di là della sicurezza che uno dovrebbe avere dalla propria innocenza, c'è anche la consapevolezza, la sicurezza da parte di Berlusconi, non sto giudicando, che molto probabilmente sarà giudicato colpevole da quel tribunale. Lello da Roma, buonasera. Salve, buonasera Cruciani. Dica. Mi sente? La sento. Allora, io volevo intervenire sulla questione della manifestazione. Sì. Mi dispiace, ma non sono d'accordo con lei, nel senso che... Può capitare, Può capitare. Il PD ha perso un'altra occasione buona in questo caso, nel senso che questo fatto di opporsi continuamente, come dire, a delle iniziative come questa, per esempio, che è un'iniziativa che... Ma non mi risulta che si sia opposto il Partito Democratico, eh? No, si è opposto, non si presenta, come dire, Bersani balbetta, insomma, come dire, non c'è è una manifestazione chiaramente, secondo me, come dire, che vuole in qualche modo opporsi a questa situazione che abbiamo in Italia. In Italia, secondo me, c'è un'emergenza democratica e in qualche modo, secondo me, ha perso un'occasione buona, insomma, questa era la cosa. Io sinceramente viaggio costantemente per tutta l'Europa per il mio lavoro e mi rendo conto che noi in Europa siamo gli ultimi. Sì, però Lello, abbia pazienza, io questo ritornello delle persone che viaggiano in Europa, che girano il mondo e che sentono delle cose sull'Italia, francamente non lo posso più sentire questo ritornello, è un po' retro ormai, cioè basta, ma chi frequenta lei in Europa? Mi spieghi, chi frequenta? Sia colleghi di lavoro che persone normali. Ho capito, ma che significa? Cosa significa? È terribile. basta guardare anche i giornali di tutte le nazioni europee, tutti sì. dicono la stessa cosa. Ma lei se le immagina la Merkel beccata con un, diciamo così, tra virgolette, escort maschio e non succede nulla? Provi a replicare questa situazione in un altro paese europeo e veda un po' che cosa potrebbe succedere. Siamo nel delirio più totale, insomma. Va bene, lei va alla manifestazione, lei va alla manifestazione, ma insomma possiamo parlare altri 20 minuti sulla questione della opportunità che una escort sia a Palazzo Grazioli. Ne possiamo parlare, posso anche concordare con lei, ma quello che mi fa impazzire è il discorso su io giro l'Europa, incontro delle persone e mi parlano male dell'Italia. È un discorso senza alcun senso, secondo me. La ringrazio, lei andrà alla manifestazione allora. Che cosa? Lei andrà alla manifestazione? Io penso di sì, se sarò a Roma sì. Va bene, grazie. Paolo Cento, buonasera. Buonasera, eccoci qui. Lei è radioascoltatore. Non c'è unanimità in Italia sulla vicenda di Battisti, cioè c'è anche chi pensa che non dovrebbe essere estradato. Paolo Cento lo pensa da tempo, fu uno di quelli che mise la sua firma nel 2004 in un appello per la non estradizione di Battisti e rimane coerente, perché poi all'interno di queste persone furono oltre 2000 eccetera, c'è chi ci ha ripensato, chi ha detto no, non ho messo la firma, in realtà me l'hanno estorta, non ero convinto. Paolo Cento almeno a questo pregio glielo dobbiamo riconoscere, io non sono d'accordo su questa vicenda qua, però insomma, conferma che secondo lui Battisti non andrebbe estradato, per la solita storia che bisogna chiudere gli anni di piombo in un altro modo, cioè no, non dico la solita storia per... Si aggiungono molte motivazioni, io aggiungo questa riflessione, poi dico, parlo della solita storia. In questo momento il dibattito politico e parlamentare è sulla prescrizione breve, ossia, e a me non scandalizza se al di là delle vicende del Presidente del Consiglio, io trovo ragionevole che in un paese civile la giustizia non abbia tempi illimitati e che quindi dopo un certo periodo di tempo, se la giustizia non è in grado di accertare la verità, non può continuare all'infinito. E si parla di 2 anni per il primo grado, 2 anni per il secondo, insomma, in 6 anni un processo arriva a conclusione o si prescrive, cioè svaniscono gli effetti del processo. Se questo è argomento di dibattito in questo paese, io trovo assai difficile pensare che una persona, ma ora al di là della simpatia o dell'antipatia che suscita Battisti, a me suscita antipatia, quindi so che il punto di partenza è parte già svantaggiato, ma una qualsiasi persona condannata per reati gravi, in una fase particolare del nostro paese che era quella della fine degli anni 70, primi anni 80, dopo 30 anni viene preso dalla giustizia e gli si vuol far pagare un conto salatissimo come quello dell'ergastolo, senza tener conto che questa persona in questi 30 anni è completamente cambiata, a detta di tutti, perché su una cosa sono tutti d'accordo, non è più il terrorista, il rapinatore, colui quello, che ha quello, scusi Cento se ne interrompo, però sul cambiamento della persona non sarei così sicuro, francamente. Diciamo che non ha più commesso reati. No, poi, vabbè, ripeto, questo sì, certamente non è uno che ha la pistola. Poi sull'antipatia ho già atteggiamenti poco, poco adatti anche nei confronti dei familiari, però siccome parliamo di una vicenda giudiziaria, penale, io mi domando, un paese che discute giustamente, e lo dico io, del processo breve, sì, del processo breve, la giustizia non può arrivare dopo 30 anni, e oggi si accanisce nei confronti di una persona che 30 anni fa ha commesso dei reati, è stato condannato in un processo per contumacia, cioè vuol dire dove l'imputato non era per sua responsabilità, perché è scappato quindi lui, con qualche dubbio, ma mettiamo anche che la condanna sia giusta e sia fondata, e dopo 30 anni questa persona ha messo su famiglia, ha vissuto in un altro paese come la Francia legalmente, non nascondendosi, ma legalmente, con una carta d'identità, tutti sapevano che stava lì, il governo francese gli aveva riconosciuto diritto di cittadinanza, ha messo su famiglia, fa un altro lavoro, non ha più commesso reati, pur rimanendo antipatico e odioso, e dopo 30 anni diventa l'emblema della lotta, della virilità della lotta al terrorismo nel nostro paese. Però mi scusi Cento, c'è un discorso che non regge, che è quello della brevità. brevità dei processi, non c'entra assolutamente nulla. E cerco di spiegarle perché in realtà i processi di Battisti sono conclusi in brevissimo tempo. Dall'81 l'unico processo a cui lui ha partecipato, perché non è vero che non ha partecipato ai processi, a un primo processo su Torreggiani partecipò, poi scappò dal carcere di Frosinone, a un primo processo lui ha partecipato. I processi di Battisti si sono risolti in brevissimo tempo, in realtà, in un arco che va, diciamo, se poi ci fu una revisione di un processo, dall'81 al 93, per cui sono 13 anni. No, ho capito, però ci furono diversi processi, diversi procedimenti, non solo uno. Cioè, i processi ci sono stati e si sono conclusi anche brevemente, quelli a Battisti. È lui che si è sottratto alla giustizia, e il fatto che sia stato ospitato in Francia non è che lo pulisce dai. Lo dico per ricordarlo a me stesso. Lei sa che nel codice di procedura penale, anche se è un fatto tecnico, tranne che per l'ergastolo, che è un reato molto grave, anche sull'applicazione della pena di condanna definitiva vi è un'estinzione, cioè se te non la applichi entro in media il doppio degli anni a cui sei condannato, la pena, in un principio, mi avviso anche questo valido, della Costituzione, non si applica più. Allora, io ho fatto questo esempio della prescrizione breve non per sfuggire alla domanda iniziale, ma per far capire come a volte vi sono, a mio avviso, due pesi e due misure. Io poi credo che a distanza di 30 anni questo paese, l'Italia, dove la democrazia ha vinto e il terrorismo ha perso, e aggiungo per fortuna, deve avere la maturità, come hanno fatto altri paesi civili, di chiudere la stagione di quegli anni di piombo e di quei processi, innanzitutto rispettando le vittime e quindi trovando delle forme che garantiscano il risarcimento, oltre che economico, morale delle vittime del terrorismo, ma anche chiudendo la pagina della persecuzione nei confronti di... Però lei continua a utilizzare la parola persecuzione, che secondo me è assolutamente fuori luogo. Mi scusi, le lascio dire un'ultima cosa. Però il fatto che una persona si sia sottratta in tutti questi anni, che non abbia riconosciuto e non continui a non riconoscere verdetti di diversi tribunali italiani, è un suo diritto fuggire, negare, per carità, però è anche un diritto... Sì, è un diritto sia proclamarsi innocente sia fuggire, è un diritto assoluto, non si può, questo è evidente, ma è anche diritto da parte di uno Stato che ha emesso quattro episodi, ha emesso diverse sentenze contro Battisti, andarlo a prendere. È un diritto suo scappare, è un diritto nostro andarlo a prendere, però non è persecuzione, ha capito? No, ma è assolutamente legittimo che lo Stato voglia applicare una pena che un giudice ha stabilito. Dov'è la persecuzione? Non la capisco la persecuzione. La persecuzione sta nel sapere che ci sono oggi in giro per il mondo alcune decine di destra e di sinistra, molto più spesso in questo periodo capita a destra, di terroristi o presunti tali che sono ricercati dalla giustizia ma che nessuno va a ricercare, e nei confronti di Battisti, ahimè facilitato anche dalla sua antipatia, perché va riconosciuto, cioè, lei vuole dire nei confronti di estremisti di sinistra c'è la persecuzione e non nei confronti di altri estremisti di destra? Mi sono stati atteggiamenti nel corso di questi anni non sempre limpidissimi, si potrebbero citare casi, ma non voglio tirare perché non c'è l'interlocutore che mi può rispondere sui casi specifici, cioè le persone che potrei tirare, cioè Delfo Zorzi, queste cose qui. Ma per me dovrebbe tornare in Italia uno condannato. La mia domanda è possibile che in questo paese si faccia una discussione finalmente seria? C'è un film che uscirà peraltro nei prossimi giorni che ci può aiutare in questa riflessione, pur non prendendolo ovviamente per oro colato quello che in quel film viene detto, una discussione seria sul terrorismo in Italia. Lo sa perché non si può fare, Cento, secondo me? Perché si parte da parte di chi vuole l'amnistia, da parte di chi vuole una soluzione, diciamo, politica, tra virgolette, a queste vicende. C'è l'idea che si sia combattuta una guerra civile, che si sia combattuta una guerra tra lo Stato, e gruppi terroristici, mettendoli sullo stesso piano. Non è così. La tesi della guerra civile, però ci sono illustri personaggi che non sono, diciamo, che sono stati ministro dell'interno e ministro della e presidenti della Repubblica come Cossiga, che parlano loro di guerra civile e dicono che ci sono state delle forzature anche nel diritto, perché c'era una guerra civile. A me non convince quella tesi e quindi non la faccio mia, però che ci sia stato in questo paese un momento in cui, sbagliando, ma alcune decine di migliaia di uomini e donne a sinistra e a destra abbiano usato la lotta armata pensando che era l'unico strumento per cambiare questo paese, sbagliando, però questa è una realtà che... Sì, è una realtà, ma da una parte c'era un manipolo di persone che voleva sovvertire lo Stato e dall'altra parte c'era una democrazia con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti. C'era una democrazia che però chiudeva gli occhi sulle deviazioni della strage di Piazza Fontana. Una democrazia, e meno male che ha vinto la democrazia. Era, voglio dire, venendo anche dall'esperienza... Però perché lei appoggia ancora la... Convinto che era un paese democratico, perché stavo da quella parte, però non posso chiudere i miei occhi e pensare che quella stagione non meriti una riflessione, ma non per salvarla, ma anche perché la mia preoccupazione è che il fatto che quella stagione, seppure in forme diverse, qualche segnale vi è stato negli ultimi giorni, il ministro Maroni l'ha opportunamente portato all'attenzione, che quella stagione possa tornare. Allora, vedete, il mio problema è che non fare i conti con quella stagione lì. Ma io penso che un modo per non farla tornare sia, per esempio, far tornare Battisti in Italia. Però le dico un'altra cosa. Velocissimamente, poi dobbiamo chiudere, che ci sono i telegiornali. Ma il fatto che, come è provato, se lei va a leggere le sentenze nel sito dell'Associazione delle Vittime del Terrorismo, il fatto che Battisti sia stato uno di quelli che ha preso una pistola un giorno e ha sparato a una persona, non le dice niente? Cioè, non basterebbe questo? A me fa ribrezzo, ma quando è giustamente stato condannato. La mia domanda è che, dopo, la mia riflessione è: dopo 30 anni in cui ha vissuto da libero cittadino in Francia, e ci sarà un perché un paese come la Francia, che non è un paese di estremisti, ma un paese civile, con le sue regole, abbia riconosciuto a Battisti lo Stato? Male, ma qualche riflessione. Al di là del caso, ora Battisti ha perso il suo processo, lo riporteranno in Italia e quindi andrà in galera, ma al di là di... vogliamo riflettere del perché una persona come Battisti, di cui diciamo tutto il male possibile, perché le persone in Francia, le persone che contavano in Francia avevano una concezione della giustizia, a parte che non c'era un riconoscimento esplicito dello status di rifugiato politico. Girava, aveva la carta d'identità, lavorava, era diventato uno tra i migliori fumettisti, dicono. Io non sono giallisti. Napolitano, il Parlamento fatica a lavorare in modo efficace, ma sulle riforme vedo che qualcosa si sta muovendo. Schifani, maggioranza coesa, gli industriali, votare sarebbe una follia. Il ministro Alfano sul processo breve, nessun catastrofismo, a rischio solo l'1% dei processi pendenti, critiche, opposizione e associazione dei magistrati. È l'inglese Catherine Ashton, il candidato dei socialisti alla carica di ministro degli esteri dell'Unione Europea, sfuma l'ipotesi D'Alema. Preso il killer ripreso dalle telecamere nel rione Sanità a Napoli, è un 27enne con precedenti penali per droga. A 26 anni dalla scomparsa della Orlandi c'è un indagato identificato dalla superteste Sabrina Minardi. Emanuela dice fu uccisa pochi mesi dopo il sequestro. Francia ai mondiali per un gol viziato da un fallo di mano di Henry. La tristezza del trap, addio al fair play, il premier irlandese si rigiochi. Pier Silvio Berlusconi annuncia Premium On Demand sul digitale, la nuova frontiera del cinema in TV. E devo dire che oggi in Francia si parla solamente di questa vicenda del fallo di mano, ha fatto il giro del mondo, se ne parla ovunque, dello scippo subito dall'Irlanda da parte della Francia. Stiamo parlando di calcio, naturalmente. TG1. Si potevano evitare un omicidio e un suicidio se fossero arrivati due fax, un ordine di arresto e uno di scarcerazione. Video shock di Napoli, preso il killer che uccise un uomo davanti ad un bar, decisiva la collaborazione del rione Sanità. Vertice UE su nomine, accordo per l'inglese Ashton, ministro degli esteri, tramonta così la candidatura D'Alema. Napolitano, servono riforme per gravi difficoltà del Parlamento. Alfano, processi brevi, in prescrizione solo l'1% dei procedimenti. Scomparsa Orlandi, dopo 26 anni un indagato, super testimone, Emanuela è morta, la famiglia vogliamo crederla viva. Rossella Sensi al TG1, Italpetroli non è in liquidazione, onoreremo il debito, per la Roma valuteremo solo proposte serie. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten And children listen. Non è al momento raggiungibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Franco Claretti si è eclissato, il sindaco di Coccaglio. Avete sentito il suo cellulare spento, spento, spento. Non vuole rispondere, dice che c'è stata disinformazione su questo, ma insomma dovrebbe chiarirsi. Ci chiarisca. Magari cerchiamo l'assessore, qualcuno. Abbiamo tempo, un'ora, poco meno. 800 24 00 24. Rosario ci chiama da Milano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Volevo dire solamente una cosa, probabilmente questo sindaco che ha tirato fuori questa storia del White Christmas è una persona che giustamente guadagna tanti soldi, non si vede in giro quello che c'è. Non è detto che guadagni, non è mica detto che guadagni. Gli altri paesi che non ha soldi per mangiare, gente che lascia le famiglie in altre posti. Mi scusi, non è detto che guadagni tanti soldi questo sindaco, perché dovrebbe guadagnare tanti soldi? Chi gliel'ha detto? Perché se guadagnerebbe poco e penserebbe magari ad altre cose, magari alle bollette da pagare, al mutuo da pagare, queste cose per l'adesso non gli passerebbero. Siccome lui questi problemi sicuramente non ce li ha, allora va a cercare altri problemi. Ma guardi, non credo, non credo che Rosario, non credo che sia Rosario, non c'entra niente la gente povera, la gente ricca, a parte che non è Milano, ma è un paese in provincia di Brescia, non c'entra assolutamente nulla la ricchezza, la povertà, quello di cui si dovrebbe occupare un sindaco. Un sindaco fa bene occuparsi anche dell'immigrazione, dei cittadini regolari e irregolari. Io parlo solamente del nome dato a questa operazione che si conclude a Natale, ed è un nome sbagliatissimo, e naturalmente può giustificare il fatto che si pensi a un'iniziativa razzista, eccetera eccetera. Gianfranco, provincia di Roma. Buonasera dottor Cruciani. Io volevo parlare del processo breve, che è inutile girarci intorno, è fatto unicamente per salvare Berlusconi. Però io vorrei dire un'altra cosa: Berlusconi si sottrae ad andare davanti ai giudici, ma il giudice può essere bello, brutto, fotogenico, intelligente, colto, ma deve essere, condicio sine qua non, imparziale. Ora, poiché i giudici, nemmeno 100 direbbe che i giudici di Milano sono imparziali, quindi non sono giudici, è una condicio sine qua non. L'imparzialità in un giudice è fondamentale. Capito, ma chi la giudica l'imparzialità o la parzialità, mi scusi? Beh, se uno che non è mai conosciuto, senta, per esempio la Gandus si è espressa con parole, opere, atti, omissioni contro Berlusconi, partecipando sì. E non sente il dovere di farsi da parte. Sulla Gandus si potrebbe discutere a lungo, su quelle frasi. Mi scusi, su quelle frasi, se sono... non ritiene di guardi, secondo me, secondo me i giudici non dovrebbero parlare pubblicamente, tu cur, cioè senza... Certamente. Per cui. Ma debbono essere imparziali. Sì, d'accordo, chi giudica la parzialità o l'imparzialità? Berlusconi è stato accusato anche per il fatto Lentini. In Italia sono stati venduti 3.286 calciatori, solo Lentini è capitato sotto le grinfie di questi giudici imparziali. Berlusconi è stato anche una causa perché aveva piantato i cactus nella sua villa in Sardegna. Non si è andati avanti con quella clausola. Guardi Gianfranco, se mi vuole dire che Berlusconi ha subito un'attenzione particolare da parte dei giudici in tutti questi anni, sono d'accordo con lei, però è difficile giudicare la parzialità o l'imparzialità di un giudice. Come sa, c'è l'istituto della ricusazione, è stato tentato più volte in tutti questi anni in diverse situazioni, in diversi contesti. La ringrazio. Andiamo con i titoli della 7. Vedo Battiato ieri a Chiambretti Night. I'm impressed about your... Questo è Trapattoni, la 7. Il presidente della Repubblica Napolitano dalla Turchia: il Parlamento è in difficoltà, anche se sulle riforme qualcosa sembra muoversi. Sul processo breve il ministro della Giustizia dice: andranno in prescrizione solo l'1% dei procedimenti pendenti. La replica delle PD: Alfano si muova alla cieca. Arrestato il presunto assassino del video shock di Napoli, killer sarebbe un pregiudicato di 27 anni, un piccolo spacciatore già noto agli inquirenti, i carabinieri catturato anche grazie al filmato dell'esecuzione. Torna in primo piano il caso di Emanuela Orlandi, a 26 anni dalla sua scomparsa spunta il primo indagato, è l'uomo che telefonò alla famiglia dopo il rapimento, lo avrebbe identificato Sabrina Minardi, ex compagna di Enrico De Pedis, il renatino della banda della Magliana. La Francia ai mondiali con un colpo di mano diventa un caso internazionale. Il premier irlandese chiede la ripetizione della partita. Henry chiede scusa, ma Trapattoni... Grazie, intelligenza, per favore, pubblicità, le parole, capisco il tuo nervosismo, ma non le parole. Cosa vuoi capire, Barbara? Pubblicità. Non hai da capire. Ma che l'ho invitata a fare? Ma per favore. Balle. Vittorio Sgarbi contro una signora in una, uno di questi nei giorni scorsi a pomeriggio 5. Riproponiamo. Anna Maria da Coccaglio, buonasera. Buonasera a lei, Cruciani. Coccaglio, proprio Coccaglio, provincia di Brescia. Coccaglio, provincia di Brescia, nato e cresciuta. Quanti abitanti? Ora abitante a Coccaglio. Quanti abitanti ha Coccaglio? 20.000? Molto meno. Allora, che ci dice di questo White Christmas? Ma francamente Coccaglio è un paese tranquillissimo, vivibilissimo, il nuovo sindaco si fa notare soltanto per questa esperienza. Posso concordare con lei che il nome White Christmas sia quantomeno fuori luogo. Per il resto devo dire che abbiamo moltissimi immigrati e francamente credo che l'iniziativa del sindaco di verificare l'appunto se questi immigrati siano o meno in regola con i documenti sia soltanto accettabilissima. Io ho un ufficio nella piazza centrale di Coccaglio e molto spesso mi sono chiesta come mai questa piazza alle 3-4 del pomeriggio fosse piena di baldi giovanotti, nulla facenti, seduti a chiacchierare e nessuno si fosse mai posto il dubbio di chiedere come queste persone, a differenza della stragrande maggioranza dei cittadini di Coccaglio, non fossero al lavoro. Però mi scusi Anna Maria, stare in una piazza, come dice lei, senza fare nulla, non è reato. Non è sicuramente un reato, però lei mi consentirà di chiedermi, proprio come cittadina di Coccaglio, visto che il resto degli abitanti ha una propria occupazione eccetera, molto spesso ci si chiede ma perché nessuno chiede a queste persone chi sei, da dove vieni, mi fai vedere i documenti, come ti mantieni e così via, non perché sia razzismo assolutamente, però a un certo punto credo che lei dice che i controlli da parte decisi con questa operazione dal nome un po' bizzarro e devo dire dal sapore vagamente razzista White Christmas, i controlli sono legittimi. Infatti sembra che stia emergendo che più che del 50% dei cittadini delle persone controllate sono effettivamente non in regola e a questo punto il sindaco non ha fatto altro o non sta facendo altro che applicare la legge. Non mi sembra alcunché di strano, non ha causato nessun genere di agitazione, di sommovimento in paese, anzi tutto assolutamente regolare, tranquillo. Credo che tra l'altro la maggior parte dei miei concittadini, così come me, abbiano appreso di questa iniziativa dai giornali, soltanto dai giornali. Lei non ne sapeva nulla? Assolutamente. Cioè non ha provocato trambusto, no, movimenti no, strani, assolutamente. Cellulari della, o macchine della polizia locale in no, giro a fare in centro, a mo' di ronda. Come ogni no, ma poi le cose raccontate dai giornali assumono sempre un'altra valenza. Sono tutte francamente sciocchezze. Ma la ringrazio. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Sandra da Rimini, buonasera. Buonasera. Dica. Ho ascoltato prima l'intervento di Paolo Cento e volevo dire che sono assolutamente d'accordo con lui. E mi dispiace che Battistino probabilmente verrà estradato in Italia. Le dispiace che Battisti venga estradato? Sì, però su una cosa non sono d'accordo rispetto a quello che ha detto Paolo Cento, cioè che allora avrebbe vinto la democrazia. In realtà secondo me non ha vinto assolutamente la democrazia, no. Allora perché no? perché non è riuscita a, come dire, a superare quelle contraddizioni sociali che hanno caratterizzato quel momento storico e che sono del nostro tempo anche adesso. Cioè, se lo Stato fosse riuscito attraverso mezzi democratici a superare quelle contraddizioni, tanto di cappello, allora potremmo dire ha vinto lo Stato, ma lo Stato ha miseramente perso, come hanno miseramente perso purtroppo i brigatisti. Purtroppo, lei dice, hanno perso i brigatisti, invece era meglio che vincessero i brigatisti. Beh, a parte grossi errori. Sandra, io non ho parole, perché di fronte a interventi di questo tipo, quando una persona mi dice purtroppo i brigatisti hanno perso, io non lo so, cioè non so nemmeno come rispondere, come reagire, cosa fare, francamente. Per cui va da sé che lei sia contro l'estradizione di Battisti, e dunque non le fa effetto il fatto che ci siano dei familiari ancora in attesa di giustizia, per esempio per gli omicidi commessi o per i reati commessi da Battisti, tra cui un omicidio cui ha partecipato, un altro nel quale ha sparato direttamente, altri due come organizzatore. No, non ne fa impressione tutto questo. Ma i morti, come le stavo dicendo, sono da ambedue le parti. Non i si morti sono mai. Da ambedue le parti. Scusi, mai. Ma il gioielliere Torreggiani chi ha ammazzato? Sicuramente un comando formato dai PAC. No, no, ma chi ha ammazzato lui? Siccome i morti sono da ambedue le parti, dice lei. Ma chi avrebbe ammazzato Torreggiani? Chi avrebbe ammazzato... Vabbè, lì comunque mi sembra che fosse per un esproprio. Un esproprio. Finire insomma, purtroppo male. Perché no, lei è poco informata, Sandra, sulla vicenda di Battisti. Mi dispiace dirglielo. La ringrazio. 20 e 22 800 24 0024. Ancora si sentono queste cose in Italia. Siamo con Oliviero Toscani. Buonasera da Johannesburg, la Città del Capo. Non so dove sia, in buonasera, Sudafrica. Buonasera, Città del Capo. Allora Toscani, lei mi deve aiutare, perché io non capisco, mi dispero, perché c'è stata una pubblicità di recente molto bella, molto significativa secondo me, perché si è cantato l'inno italiano anche in un modo un po' particolare. Gliela faccio ascoltare se già non l'ha sentita. Sorelle d'Italia, l'Italia si desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa. E poi continua, era lo spot di un'azienda, non ripetiamo il nome, se no ci accusano di fare pubblicità, ma io me ne frego. Allora, è stato ritirato da tutte le reti televisive nazionali perché lo ha deciso l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Di cosa si tratta, Toscani? Cos'è? Che istituto è? Mi aiuti, Toscani? Che istituto è? In Italia la giustizia ordinaria non vale niente, no? Allora, ogni corporazione fa la sua corte, cioè i siciliani hanno cominciato con la mafia, no? E questa mentalità mafiosa si è estesa alla giustizia sportiva e anche alla giustizia della demenza pubblicitaria. Cioè lei mi dice che questo istituto dell'autodisciplina pubblicitaria è un'invenzione, non so di chi, evidentemente delle... No, una mafia nel senso, cioè è un'organizzazione privata, di giustizia privata, chiaramente coinvolgendo dei giudici seri con i quali io ho sempre perso le cause, perché questi giudici sono amici di questa corporazione e gli dà sempre ragione alla corporazione. Ma in realtà, guardi Crociani, che anche lei con Radio 24 appartiene, sì, a questa corporazione, quindi stia molto attento. A che corporazione? Ah, noi partecipiamo anche noi? Sì, a voi, Repubblica, tutti i giornali, se siete iscritti a questa corporazione, a questa mafia. E quindi loro mi danno torto, dice lei non deve lavorare con questi che sono iscritti, che sono membri della nostra istituto dell'autodisciplina pubblicitaria. Istituto di autodisciplina pubblicitaria. Però che c'è stata una denuncia presentata dall'associazione difesa, questa è bellissima anche questa, la denuncia contro questa pubblicità, perché hanno storpiato l'inno nazionale, non so se si rende conto lei, è stata presentata dall'associazione difesa consumatori sportivi, cioè esiste anche un'associazione difesa consumatori sportivi. Esatto. E hanno, evidentemente poi Calzedonia si è adeguata, perché Calzedonia è l'azienda che, di cui parliamo, si è adeguata, perché non è che questo istituto ha il potere di togliere una pubblicità no, dall'onda, o sbaglio? Sì, no, ma non ha nessun potere, no, però i giornali o le radio che appartengono a questa corporazione devono sottostare queste regole dell'auto dell'istituto, l'avete inventato voi, Crociani, anche lei. Anche io, anche io. Io non sono. No, io manco sapevo di appartenere a questo istituto, si figuri. Lei non sa neanche appartenere, capisce? Come da buon siciliano. No, non sono siciliano, ma praticamente. No, ma dico la mafia, no? Tutti siciliani, ma più. Insomma, no, ma qualsiasi forma di creatività o di forma di intelligenza viene uccisa da questo istituto di autodisciplina pubblicitaria. Con loro non ci sarebbe stato il Rinascimento, non ci sarebbe stato la pittura, non ci sarebbe stato l'arte nel passato. Qualcuno poi si deve adeguare a queste decisioni, cioè l'istituto, questo istituto per autodisciplina decide qualche cosa in base, non so, a quale. No, ma il problema è che comunque Calzedonia ha già ritirato la campagna perché ha finito, non c'è più quella pubblicità, no? Siccome loro sono anche lenti, per di più, oltre che essere un po' questo istituto della disciplina è anche lento, ha emesso questa sentenza, ma in realtà la campagna è già uscita. Io ho avuto 30 censure da loro. Sì. Ma ormai non mi ha mai tirato giù i manifesti dal muro, perché ormai i manifesti erano già giù da 2 settimane, capisce? Dunque non serve a nulla, in realtà queste decisioni non servono a nulla. A nulla, a fare risonanza. Calzedonia deve ringraziare, come io ringrazio l'istituto, ringraziare l'istituto di disciplina pubblicitaria di avermi sempre fatto amplificazione di ciò che faccio. Senta, ma se da un giorno all'altro dire, Crociani, devo dire la verità, questo istituto di autodisciplina pubblicitaria è un mio ufficio personale che serve a me per fare che mi aiuta a fare più pubblicità di quella che faccio. Senta, ma se da un giorno all'altro questo istituto di autodisciplina pubblicitaria scomparisse, se fosse sciolto, non cambierebbe nulla nella pubblicità italiana. Ma assolutamente non saremmo in pericolo di forse, ma va, una pubblicità più intelligente, più viva, più tutto. Vedrà che adesso censureranno anche la mia campagna contro il bullismo in Alto Adige, dove c'era una banana e un pisello, no? Uomo e bullo, ci sono grandi discussioni. Censureranno anche quello un mese dopo, magari, che la campagna no, è finita. Ma qualsiasi forma ironica, e chiaramente è un fatto mentale l'ironia, no? Viene censurata da questo, ma lei deve vederli in faccia che faccia hanno questi qua dell'istituto? Questi dell'istituto? Sono anche esteticamente sono come quello che decidono. E nei prossimi giorni farò una piccola indagine. Prova a guardare. In radio non si vedono, ma si possono descrivere. Grazie, buona serata. Prego, buonasera. Grazie, 20:28. Michele, provincia di Bari, buonasera. Buonasera a lei. Adesso i membri dell'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria ci sommergeranno di insulti, come è normale che sia dopo questo intervento di Toscani. Ma non fa niente, questa è la Zanzara, dove si può dire più o meno qualsiasi cosa. Michele, lei cosa ci vuole dire invece? Volevo intervenire su White Christmas. Secondo me, io sono un uomo del sud, provincia di Bari, Trani, e quindi io, secondo me, il sindaco ha fatto non bene, ma benissimo, si è fatto questa delibera, perché finalmente un sindaco evidentemente fa rispettare le leggi in materia, e quindi no, una volta tanto che troviamo un sindaco che fa rispettare le leggi, insomma mi sembra un po' assurdo che poi lo si va a criticare, prima cosa. Io volevo portare poi come seconda cosa l'esperienza che abbiamo noi qui, di fronte all'aeroporto di Bari c'è un centro di accoglienza di persone extracomunitarie che vengono salvate dal mare. Bene, questi qua hanno libertà, giustamente, hanno libertà di uscita. Ci mancherebbe altro. Indubbiamente, io ho detto giustamente. Però c'è un dato di fatto, che sono in libera uscita e vanno girando per tutta la provincia, dove si mettono davanti ai bar e ai negozi e chiedono l'elemosina. E se qualcuno non gli dà i soldi, hanno toni o sguardi minacciosi e vengono minacciati anche i negozianti. Però mi scusi Michele, gli sguardi minacciosi, scusi un attimo Michele, gli sguardi minacciosi e le parole di minaccia insomma restano lì, poi quando si passa ai fatti ci dovrebbe essere l'intervento della forza pubblica. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright. Suona, suona a vuoto Franco Claretti, sindaco di Coccaglio. And may all inventore forse del White Christmas. Be white. Niente da fare, Poi chiederò ad Adriano da Coccaglio perché il sindaco, anzi glielo chiedo subito, Michele resti lì, 800 24 00 24, Adriano da Coccaglio, eccoci qui, buonasera. Buonasera a lei, dottor Crociani. Allora, ma perché il sindaco si sottrae, secondo lei? Io penso proprio che... Lei che fa dare... a Coccaglio? Che fa? Non dà spiegazioni, cioè non mi sembra corretto tutto questo. Non ma lei che fa a Coccaglio? Che fa di mestiere? Io sono consigliere di opposizione. Ah, di quale partito? È una lista civica la nostra, sì. Per cui non fa riferimento a partiti specifici. Sì. Abbiamo raccolto voti così nelle passate elezioni, purtroppo non abbiamo... Ma l'ha visto oggi il sindaco? Vi siete incontrati lì in consiglio comunale oppure no? No, su questo tema no, non ci siamo ancora incontrati. No, ho capito, ma l'ha visto oggi il sindaco? No, non l'ho visto. No. Ma perché dopo essere finito, magari è finito su tutti i giornali, non si voleva... Sì, è difficile concedere, però insomma, uno deve anche rispondere delle cose che fa. Deve rispondere, penso, anche perché io ho sentito prima una mia concittadina, Anna sì, Maria, sì. La quale dice che tutto sommato difende l'operato dell'amministrazione. Noi insomma apparteniamo a quell'altra metà del paese che si indigna, insomma, perché... Però mi scusi Adriano, al di là del nome... assolutamente folle dato a questa operazione, certo. Non è che controllare da parte della polizia locale gli extracomunitari, chi è in regola e chi non è in regola, sia di per sé una cosa sbagliata? Certo, no, ma allora c'è la legge, no? E anche se noi non la condividiamo, ma c'è ed è giusto, però si può utilizzare facendo il controllo in modo discreto, con lo scopo almeno di dare indicazioni e aiutare i migranti. Non si può dire adesso facciamo pulizia. La parola pulizia chi l'ha pronunciata? Bravo, l'ha detto il sindaco. Il senso comune associa questo termine all'immondizia, ai rifiuti. Cioè il sindaco ha parlato di pulizia? Facciamo pulizia, sì, a Coccaglio facciamo pulizia. Io non penso che assimilare gli extracomunitari alla spazzatura sia qualcosa di dignitoso, è questo che scandalizza. E poi utilizzare, guardi, siamo in un paese, no, dove ormai la Lega sta trionfando, ha acquisito molte amministrazioni, chiamarla White Christmas, Bianco Natale, quando qui si vogliono valorizzare le tradizioni, la nostra identità, c'è molta incoerenza in tutto questo, no? E poi accreditare se stesso, no, come ha fatto Claudio Abbiendi, l'assessore alla sicurezza, come vero cristiano perché è stato educato dai salesiani, oppure perché la domenica scorsa era andato a vedere il Papa a Brescia, cioè mi sembra molto molto molto, tutto questo non convince, insomma. Non approviamo assolutamente l'operato. Va bene Adriano, però ci faccio una cortesia, magari con le nostre segretarie controllate poi i numeri di telefono del sindaco, magari il numero sbagliato. Grazie buona grazie serata. A lei, buona 20 serata. E 39 800 24 00 24. No, eravamo con l'ascoltatore da Bari che non c'è più, ci ha lasciato. Paolo da Milano. Buonasera, Crociani. Dica. Ma no, senta, vabbè, insomma, io non so, qui si va avanti sempre con il marketing, no, su White Christmas. Cioè io mi chiedo... Che senso il marketing? Sì, è marketing, questo White Christmas, anche questo, anche da parte sua, questa eccessiva ironia, insomma, no? E che devo fare? Mi devo strappare no, i capelli? No, che c'entra questo, che c'entra? Cioè voglio dire, non, White Christmas, loro intendono white per le persone che sono di colore bianco, cioè, dire... il riferimento mi sembra quello, infatti per questo ho definito allora non è, cioè, anche lei non sa, insomma, che è uno strumento importante, non può dire un nome folle, voglio dire, cioè, che facciamo, aspettiamo il morto, ci deve scappare un morto, una, non so, un qualcosa, no, i morti genere. Non c'entrano niente con i controlli, abbia pazienza. No, non è che, no, dico, siccome il livello di guardia si alza, cioè, secondo lei adesso ci sono i roghi? No, non è che la prossima cosa sono i roghi, no, in stile Ku Klux Klan, non lo so, non mi facciamo dica. Sempre gli spiritosi, su, dai, per cortesia, io credo che l'ironia valga bene su qualche argomento, quando si parla di qualche parlamentare che non sa neanche dove si trova la Cecenia, voglio dire, però su queste cose non si può star lì troppo a scherzare, e siccome non si può sempre fare marketing in Italia, ci sono valori ci sono valori sui quali non si può transigere. L'Italia non può arrivare sempre a questi livelli, no, non sempre, ma non possiamo arrivare a questi livelli qua. White Christmas vuol dire l'uomo bianco, cioè il Natale per l'uomo bianco. Cruciani, mi permetto di farle notare una cosa, sì. Che lei lavora in Radio 24, lei è un ottimo giornalista, nel senso che io credo che lei sia un sincero democratico, però lavora per l'organo di Confindustria. Allora queste persone di colore sono quelle che aiutano il famoso Nord-Est, certo. a lavorare, certo. e a fare PIL, voglio dire. Perché mi deve mettere in bocca? Perché pensa che io sia d'accordo con il sindaco di Coccaglio, con l'assessore della Lega? No, pazienza. Perché lei dice un nome, Paolo. Folle, ma non è un nome folle. Ma se vuole uso un altro termine, altro aggettivo, non c'è problema. No, ma non bisogna stigmatizzare queste cose qua, perché poi ci scappa il morto alla fine. Alla fine di tutto Paolo, questo. Sul fatto che ci scappa il morto. Mi scusi, Michele da Bari, prima sì. le ha detto. Che ci sono certi immigrati che hanno sguardi di odio. Infatti io gli ho detto ma che significa? Ma cosa si Paolo, ma forse lei non ha sentito la mia non ha sentito la mia risposta, Paolo. Ho detto non mi pare che avere sguardi di odio significa commettere un reato, e poi gli sguardi di odio ce l'hanno pure gli italiani, Ma su questi argomenti qua non si può. Ho capito, ma che cosa devo fare? Devo prendere i forconi, devo urlare, devo strillare, che devo fare, Paolo? Cruciani. Scusi, per me le dico come la penso. Secondo me non si può. No, le dico come la penso. Ma che c'entra il marketing? Noi facciamo Paolo, a parte che in questo caso lei dice che facciamo troppa ironia, troppi giochetti, troppe canzoncine su una cosa seria. Questo sì, vuole dire lei. No, l'Italia non è l'Italia non è questa roba qua. Sì, non so cosa sia l'Italia o cosa non sia l'Italia, il punto non è questo. No, l'Italia non è questa roba qua. Noi la sera giochiamo anche, scherziamo anche, poi sappiamo quando dobbiamo scherzare, fino a che punto dobbiamo scherzare e fino a dove ci possiamo inoltrare. Lei ha un bello strumento in mano, una trasmissione che fa opinione, voglio dire. Paolo, cosa vuole che le dica? Secondo me il sindaco, l'assessore, chi ha inventato questa cosa White Christmas, i vigili, perché ancora non si sa, pare sia stato l'assessore, è un cretino. A più di questo cosa vuole che le dica? Va bene che è un cretino? Ma non deve andare bene a me, io lo so, no, però, ma non so, vuol dire, più di dirle, secondo me è un cretino che ha inventato questa roba, però controllare le persone, un sindaco, per di più della Lega, io credo che sia normale controllare. Ma non gli metti White Christmas, perché si intende il Natale bianco, il bianco. Ma certo, l'uomo, e infatti l'uomo è un cretino, bianco, infatti è un cretino, non mi sembra però che si sia passato ai roghi, Io sto dicendo che bisogna stare attenti. Voglio dire, c'è un'associazione di destra che si chiama Fare Futuro, sappiamo tutti da chi è presieduta, insomma, no? Sì. Ecco, voglio dire, cerchiamo di far crescere un pochino tutti quanti, no? Tutto il paese su questi argomenti, per una convivenza un po' più serena, santo cielo. E bisogna farlo sto lavoro qua, Sì, però, ripeto, non è che se uno non è d'accordo con quello che sostiene Gianfranco Fini automaticamente viene reclutato tra i razzisti o tra quelli che vogliono... No, infatti Fini sta facendo una buona operazione. Io non sono di destra, però sta facendo un buon lavoro, insomma, sui diritti. E mi sembra che i diritti siano una cosa... Ma perché va bene poi per tutti noi, perché l'integrazione... Lei è d'accordo, per esempio, sul voto agli immigrati dopo 5 anni, come propone Fini? No. Io sono d'accordo con Beltroni e sono d'accordo con Fini. Sì. Io sono d'accordo con tutte e due. Eh sì, certo. Perché è una proposta di legge anche di Beltroni. Certo. Però non bisogna, certe cose, insomma... Non sono di destra e di sinistra. Io credo certo. Che non si debba scherzare più di tanto, perché poi queste cose scatenano l'odio e scatenano vari sentimenti di rabbia, di risentimento. Poi si parla di sguardi di odio, non è vero, sono tutte balle, viviamo tutti, io vivo qua a Milano, C'è chi è più arrabbiato e c'è chi meno. Sì, però Paolo, in alcuni contesti, in alcuni paesi, non sarà il caso di Coccaglio, non lo so, è una realtà, il fatto che l'immigrazione clandestina possa provocare delle situazioni di attrito, delle situazioni di problemi con la criminalità. Sì, insomma, questo sono i dati a dircelo. Sì, però l'impressione, sì, però spesso queste persone sono le stesse persone che poi vanno in fabbrica e fanno crescere il PIL, insomma, quindi bisogna anche mettersi un po' d'accordo, insomma, non è che possiamo, cioè, magari tenerle, non sono le stesse che vanno a rubare. Non possiamo tenerle di giorno e poi di notte nasconderle, insomma, ecco, io penso quello. Cruciani, io la ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie, la ringrazio molto, arrivederci. Traffico. Con i pneumatici invernali Pirelli guidi in sicurezza in tutte le condizioni stradali. Info su pirelli.it. Vi presenta Strade in diretta. Traffico è scorrevole sulle principali direttive della penisola, ma raccomandiamo prudenza per la nebbia che riduce la visibilità. In Abruzzo sulla 24 tra Sergi e Teramo, sulla 16 Napolicanosa tra Vallata e Lacedonio e sulla 14 Adriatica tra Acquaviva delle Fonti e Taranto. Nebbia banchi anche tra Roncobilaccio e Barberino sul tratto appenninico dell'Autosole. Occupiamoci dei cantieri notturni, questa notte chiude la 7 Milano-Genova tra le 21 e le 6 di domani mattina, nel tratto compreso tra Busalla e Vignole e Borbera sulla carreggiata verso Milano. E sempre dalle 21 sulla 9 Lainate-Chiasso chiude lo svincolo di Turate in entrata su entrambe le carreggiate e chiusa anche l'uscita, ma solo verso Lainate. Per le vostre segnalazioni sul traffico potete chiamare l'800 197 313. È tutto, Strade in diretta, torna tra un'ora. La Zanzara. Siamo qui alle 20.46 per l'ultimo tratto di strada della Zanzara di questa sera, 800 24 00 24. Maria Paola ci chiama da Roma, poi abbiamo recuperato con Michele dalla provincia di Bari. Spazio però a Maria Paola, buonasera. Buonasera. Dica. Guardi, io mi riallaccio all'intervento dell'ascoltatore precedente per dire cose, diciamo, diverse. Nel senso che io invece ritengo che Fini non stia facendo un buon lavoro e non stia rispondendo al mandato che gli elettori, in tantissimi anni di vita politica di Fini e nelle varie fasi, con tutte le differenze possibili e tutti i cambiamenti anche importanti che lui ha fatto all'interno della destra italiana, non sta rispondendo al mandato del suo elettorato. Io non nego che il presidente Fini possa modificare le sue posizioni, come è successo, come la maturazione degli individui prevede tutto questo. Tuttavia è sorprendente che lui intenda assolvere il ruolo di Presidente della Camera, che è un ruolo istituzionale sopra le parti, e contemporaneamente partecipare attivamente alla gestione interna del partito, ancorché non sia in qualche modo legittimato a farlo, perché il suo partito in questo momento lui… Pronto? No, la sento con attenzione. Ah, mi scusi. Il partito lui in qualche modo, come posso dire… lo ha dato in altre mani, ha lasciato. Guardi, Maria Paola, su questa sua seconda considerazione sono assolutamente d'accordo. Già era qualche giorno che volevo dire questa cosa, poi mi sfuggiva per diversi motivi, eravamo presi da altre storie, però è vero, è una cosa che hanno notato in pochi. L'altro giorno credo l'abbia scritto Alessandro Sallusti sul Giornale, en passant, così. Spesso sono stati criticati i presidenti della Camera, i presidenti del Senato nelle passate legislature quando intervenivano nell'agone politico, diciamo, nella discussione politica quotidiana. Beh, da questo punto di vista devo dire che le critiche a Fini sono pochissime. Eppure il presidente della Camera, che fa politica attiva quotidiana su ogni tema praticamente, interviene subito col suo ufficio stampa o con i suoi uomini, è un qualcosa di assolutamente, non dico anomalo, ma è certamente una cosa che nel passato da molti è stata criticata. Non so se sia compatibile con il ruolo di presidente della Camera. Persino Casini, che magari agiva più nell'ombra e nell'ultimo periodo certamente si era smarcato molto da Berlusconi, insomma, non era così attivo su ogni argomento, su ogni tema, subito a replicare. Per quello che riguarda lei, l'argomento invece delle posizioni di Fini, devo dire che sostiene le posizioni che sostiene adesso da tempo, sia sull'immigrazione, da molto tempo, e sicuramente per come posso avere seguito io, insomma, la vita politica. Io non faccio politica attiva, insomma, quindi sono un cittadino che valuta e si forma delle opinioni leggendo, ascoltando, eccetera. Però sicuramente le opinioni di Fini sono molto modificate, e poi quando Fini fa delle valutazioni anche sulla democraticità, insomma, del partito al quale lui adesso appartiene, io vorrei ricordare un dettaglio. Fini ha fatto nel periodo di segreteria di Fini di Alleanza Nazionale 3 congressi, solo 3 congressi, di cui l'ultimo per sciogliere il partito. Beh, non mi risultano, quindi, 3 congressi, però. Forse meno, apposta dico di conti, insomma, non siamo meno. Congresso all'anno, il dibattito. No, ma che ci siano delle posizioni di convenienza di Fini, appunto, rispetto a posizioni del passato, su questo non c'è minimo dubbio. Però io vado alla sostanza degli argomenti, e poi qui si tratta di sensibilità personale. Condividere o meno, però io vorrei ricordare che il mandato che Fini ha avuto dal suo elettorato è abbastanza diverso da quello che lui sta portando avanti in questo momento. Sì, può darsi che su alcuni punti sia diverso, e in alcuni punti la sua posizione è largamente minoritaria, su questo non c'è dubbio. La ringrazio, Maria Paola, per questo intervento. Abbiamo ancora 5 minuti. Abbiamo recuperato Michele dalla provincia di Bari. Ha sentito l'ascoltatore di prima, Michele, che se la prendeva lei ha detto, insomma, ma a me dà fastidio il fatto di che ci siano alcuni extracomunitari che abbiano degli sguardi un po' aggressivi. No, a me non è che dà fastidio, io voglio il rispetto della legge. Ovvero sia, queste persone che sono qui i nostri ospiti, è che non si possono toccare, e poi quando vanno a chiedere l'elemosina e uno non gliela vuol dare liberamente, oppure vanno a un negoziante che chiede i soldi, se non glieli dà, questi hanno frasi ingiuriose e sguardi minacciosi. Vabbè, ho capito, adesso Michele, non è la quotidianità questa, abbia pazienza, ci saranno dei casi in alcune zone, eccetera. No, è perché no, io il rispetto. Uno fa delle segnalazioni alle forze dell'ordine, le minacce sono. Sì, no, vabbè, ma quando si chiamano i carabinieri, sì, scusate, sta succedendo questo, e rispondono i carabinieri: ah, questi sono quelli di Bari Parese e non li possiamo toccare. Allora, quindi, non li possiamo toccare, che significa? Mi scusi. Che non li possono né fermare, non li possono fare niente. Vabbè, adesso questo bisogna spiegarlo, allora, questa cosa. Questa è la conclusione del mio discorso. Cioè, a me va bene tutto, va bene il rispetto, l'accoglienza. Io poi a me non è che me ne può importare tanto di meno, perché destra e sinistra non è che mi interessi. Sì, molto. Ma quando uno dice non li possiamo toccare, cosa significa? Che se li fermano non gli possono far niente, prendono le generalità e finisce là. Sono perché sono all'interno di un centro di accoglienza. Quindi sono liberi di circolare, la sera si ritirano, gli diamo vitto e alloggio, semmai se hanno pure il titolo di rifugiati, giustamente gli danno pure 800 euro al mese. Però quando uno chiama i carabinieri perché questi danno fastidio, non perché danno fastidio come persone, danno fastidio nei loro atteggiamenti, comportamenti, azioni, eccetera, poi non si possono toccare. E allora spero che questo sindaco di questo paesino vicino Brescia si venga a candidare da queste parti, perché viene eletto sicuramente, perché siamo stufi, siamo stanchi. Va bene, grazie Michele Mohammed, ci chiama da Coccaglio, buonasera. Buonasera. Mohammed, lei però, mi scusi, dovrebbe spegnere la radio oppure abbassare il volume, altrimenti la sentiamo due volte, grazie. Ho già fatto. Buonasera, io li sto chiamando qui proprio da Coccaglio per quello che riguarda il nostro caro sindaco. Lei di che nazionalità è, mi scusi? Io sono nazionalità marocchina. Però di doppia nazionalità, nel senso marocchina per la nazionalità italiana. Ah, anche... E ho 2 figli che sono nati qui proprio nel nostro comune. Che sta succedendo a Coccaglio? Quello che sta succedendo, guarda, quello che hanno detto le radio, sta succedendo il peggio, credetemi. Cioè, perché mi spieghi bene. Vi spiego bene, perché io sono uno di quelli forse magari che... Da quanti anni abita a Coccaglio lei, mi scusi? Io da 15 anni che abito. 15 anni. Sì. Ma questi controlli ci sono, non ci sono, sono veri, sono... Sono verissimi, quello che vuol dire, da ottobre fino adesso, che oggi è il 19 novembre, sono stato controllato 4 volte. Ma da chi? Dei vigili, è l'ultima volta che ho cosa hanno controllato? I documenti, cosa controllavano? Allora, la prima volta che sono venuto a casa, sono venuto alle 4:30 della mattina, hanno svegliato anche i missili. Alle 4:30 di notte, che sono venuti a fare alle 4:30 di notte? E controlli a tappeti, sono venuto a bussare, bah. controlli per che cosa? Controlli, per i documenti. Devo fare dei documenti, questo è stato il 2 di ottobre, poi dopo il 18 di ottobre ancora di nuovo alle 6:30 della mattina. Ci ho pure litigato, le ho detto, guarda, scusate, 2 settimane fa siete stati qui per controllo. Qui ci abito io, mia moglie e i miei 2 figli che sono nati qui in Italia da 15 anni. cioè, mi volete spiegare cosa succede? Lei non ha niente da dire, c'è i documenti, ci fa vedere i documenti, glielo fate vedere. L'ultima volta che sono stato... E poi sono andati via, no? Sì, sono entrato a casa, tutte le stanze, a battere a destra e a sinistra, a fare i letti, tutti quanti, come se fosse dei spacciatori. Come i letti, scusi, che hanno fatto? Mi spieghi bene, Mohammed. Allora, vi spiego cosa è successo. Quando sono entrati, le ho detto, ma scusa, voi siete venuti qua 2 settimane fa a controllarci. Qui ci abito io, mia moglie e i miei 2 figli. Sì. E vuole sapere che cosa vuol dire questo controllo, che cosa abbiamo fatto? No, niente, vogliamo vedere se siete in regola. Va bene. Vabbè, al di là dei documenti, cosa hanno visto? Nulla, sono venuto. No, lei mi dice che sono entrati dentro le stanze. Che mi stai dicendo? Lei mi ha detto, hanno visto tutte le stanze, hanno aperto il nostro camera da letto, sì. Il soggiorno, gli altri camere dei bambini, hanno alzato i materassi, cioè è come se fosse controllo della droga, hai capito? Poi sono venuti un'altra volta? Poi sono venuto 2 settimane dopo. Quando sono venuto 2 settimane dopo io mi sono molto incazzato, ho detto, ma volete spiegarmi che cosa anche 2 settimane dopo hanno controllato sotto i materassi, il stesso controllo, per quello che mi sono incazzato, perché ho detto, ma guarda, qui accanto a me ci abitano altri italiani, siete andati a bussare ai italiani? Io sono italiano come loro, forse magari marocchino italiano, però siete andati dobbiamo, come sente dalla musica di sottofondo, purtroppo dobbiamo concludere. Abbiamo il suo numero di telefono, ci risentiamo sicuramente, se vuole, se ha tempo, domani sera 18:30. Ciao. Radio 24. La passione si sente. Grappa le 18 lune di Marzadro. L'arte di saper aspettare. Vi ha presentato La Zanzara.